blog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Ammiro il suo coraggio, miss French. Silvia French. E io ammiro la sua fortuna, mister Bond. James Bond. Centinaia di persone che non possono parcheggiare, io non ero stata notificata. Dove le mettono le macchine tutte queste persone? Mr. Bond, immagino che non accetterebbe di alzare il limite. Niente da obiettare. Traffico qua sul Lungodevere, tutto chiuso. Sei scrivici? Non siamo riusciti a parcheggiare da nessuna parte. Solito di lunedì non c'è traffico, infatti sto arrivando in ritardo a un'udienza. E io ho dovuto fare tutto il giro di qua di là, ora ho parcheggiato in un posto che poi teoricamente sarebbe anche divieto. Incrociamo le dita, speriamo che non becco pure la multa. Certo. Per carità, io ho fatto la scuola di cinema, amo i film, per carità, però insomma il disagio è notevole. Eh sì, come se non bastassero i tifosi olandesi, come se non bastasse l'ISIS che sta arrivando con le camionette. C'è stato anche 007 in questi giorni a bloccare la città di Roma. James Bond sta girando il suo ultimo film nella città eterna, la città eterna attualmente paralizzata. Per paralizzare Roma bastano due gocce d'acqua. Figuriamoci un set televisivo con la Bellucci che va a giro improfumando le strade piene di pantegane. Beh, Roma vive un disagio, ma ci fanno ridere alcuni paradossi. Che laddove non è arrivata la Spectre, cioè a creare danni notevoli al fisico dell'immarcescibile e vulcanico agente 007, c'è riuscito il sindaco Marino. Meno male che nel 700 i sanpietrini furono inventati per non far ribaltare la carrozza del Papa sulle strade mal lastricate di Roma, perché ora proprio loro sono riusciti nell'impresa tentata dai più cattivi tra i cattivi dei film, ostacolare James Bond. Nella capitale il regista Sam Mendes è alle prese con il 24esimo film della saga, Spectre. Ecco il fascinoso Daniel Craig sulla mitica Aston Martin di 007 per correre le vie attorno al Colosseo. Ma dove sono gli inseguimenti, le fughe adrenaliniche, direte voi? Semplice, non si possono fare. Rallentare la lotta di James contro i malvagi ci pensa il pavé. La sua super tecnologica auto sull'antica pavimentazione romana non può superare i 70 km orari. E anche a velocità ridotta il girato è disturbato da contraccolpi continui, dovuti alle buche e appunto ai famigerati sanpietrini. Cioè, ve l'immaginate, 007 come un Marel che guida col cappello in testa a 50 all'ora per le strade di Roma e i cattivi dietro che lo devono inseguire camminano come con rallentatore, capito? A passo d'uomo. Cioè, questa automobile, l'Aston Martin, io la vedo da quando sono ragazzino, il primo film è di metà degli anni 60. Mi sembrava una cosa fantastica, camminava su percorsi minati, gli sparavano col bazooka, aveva sempre un meccanismo, si buttava in acqua e galleggiava, volava, aveva ribaltabili iper performanti per super trombate con le belle bionde che aveva sempre, ai tempi naturalmente erano altri attori e altro spessore, però allora era Sean Connery, oggi è Daniel Craig, che però è tornato a casa pare con un bernoccolo, perché l'Aston Martin che avevano rialzato di 60 centimetri, no 60 forse sono troppi, 6 centimetri, perché potesse camminare a velocità lievemente più sostenuta che il passo d'uomo da Umarell per le vie di Roma, in realtà ha incocciato una delle tante buche di cui Roma è atavicamente infarcita da almeno gli ultimi 7 sindaci. Le buche di Roma lo sanno, non esiste signora che non abbia una caviglia fratturata per essere inciampato in una buca, non esiste motorino che non sia inciampato almeno una volta. I pini di Roma sono bellissimi, i pini hanno delle radici terribili che ogni tanto fuoriescono all'improvviso nell'asfalto e viene una buca, e poi hanno anche le buche, che le buche possono essere ricoperte e sanate in due maniere. C'è la cosiddetta romanella, che passa una squadra di netturbini, gli dà un'asfaltata, ci butta un po' di catrame, dopo 10 macchine riviene la buca, e i netturbini naturalmente, se sono in una ditta in appalto, ridanno l'asfaltata. E quindi le buche rimangono sempre. Che accade a Roma con 007 800 24 00 24? Siete ancora affascinati da questo fantastico mito dell'agente segreto, che aveva molto senso finché c'era la guerra fredda, ha riacquistato senso con il pericolo che viene dal medio estremo oriente, ma ancora oggi vedere 007 Abbottato con il bernoccolo in testa perché è incappato nel San Pietrino, vedere la Bellucci che ha pestato la grande cacca del cavallo della carrozzella e quindi imbarazzata che si pulisce la scarpa con una salviettina, non è vero, però ce l'ho messo perché ci sta bene. Che impressione vi dà? Cade un altro mito? Ieri parlammo dell'eclissi e dell'obelisco di carne che rappresentò gli italiani, oggi parliamo dell'agente 007 che a Roma ha avuto più difficoltà di quante ne abbia avuto nei suoi tanti film. Sta a sentire, Goldfinger, la tua fortuna ha girato. Dubito molto che la polizia di Miami approverebbe quello che stai facendo. Annuisci se sei d'accordo. Coraggio. Bene, ora comincia a perdere, Goldfinger. Diciamo, $10,000? No, siamo generosi. Facciamo 15,000. Posso vedere? Beh, a quanto vedo oggi è la mia giornata. Ramino. Passo e chiudo. Ora sarò occupato per un po' di tempo a perdere. Lei comincia a piacermi, signor Bond. No. Chiamami James. Più di chiunque abbia mai incontrato. Ilario Citton, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Già a volte italiani. Sei, lei è il più grande maniaco di 007 che esista nel mondo, forse probabilmente nel mondo, no, ma in Italia sicuramente. Presidente di un, cos'è, un circolo, un cercle, il club. Un club italiano, un club di James Bond, e ha pure un indirizzo web, www.lecercletuttoattaccato.com. Non è un fan club, ma è qualcosa che si rifà ai circoli anglosassoni che attorno all'agente 07 hanno cementato i loro contatti. Il suo punto di vista, cosa sta accadendo a Roma? È, diciamo, l'eclisse di un mito? Nel San Pietrino è scivolato anche 007? Assolutamente no. Beh, innanzitutto voglio smentire assolutamente la botta e il bernocolo a Daniel Craig, che non è vero niente. Ma lei ha delle fonti, lei avrà, diciamo, delle entrature. Io ho delle entrature molto forti, sì. Ma lei era sul set, non si è perso un minuto? Sono stato sul set il primo giorno al Museo della Civiltà Romana e sono stato sul al cimitero, hanno ricostruito un cimitero lì, no? Sì, un finto cimitero, perché al Verano era stato sfrattato Bond e non si sa perché. Ecco, mi spiega com'è questo gesto veramente provocatorio e devo dire immotivato, razzistico. Perché il Verano non ha fatto entrare in un cimitero che ormai è un museo d'arte, sono morti antichi, non ha fatto venire 007? No, io credo che ci sia stato un problema di carattere, secondo me credo, politico, o non si sono messi d'accordo. È la politica, oppure la produzione ha deciso all'ultimo momento che il Museo della Civiltà Romana andava meglio del Verano. Ma lui doveva correre con l'Aston Martin in mezzo alle tombe, cosa avrebbe dovuto fare? No, assolutamente. Lì è una scena di un funerale, non rivelo ovviamente cosa, perché so già cosa succederà. Sì, certo. Lei sa tutto, ovviamente. Anche come va a finire. Io so, sì. So. E la Bellucci era in gramaglie, faceva diciamo la vedova. Ma fa la vedova vestita ovviamente da funerale in vestito nero, bellissima, perché la Bellucci 50 anni è stupenda, quindi con Daniel Craig vestito in nero, con un doppio petto, un cappotto all'inglese, quindi insomma ci aspettiamo un film spettacolare. Le tombe dove le hanno ricostruite però? L'Euro? All'Euro sempre, pensate che le tombe viste da davanti sembrano delle tombe vere, ma da dietro, viste da dietro, sono dei pannelli in cartone, in cartongesso. Lei se n'è presa una per ricordo, un cimelio? Ero tentato di entrare dentro, di sfondare il cordone di sicurezza severissimo, ma ho rinunciato ovviamente. Perché, però è bello avere una lapide che ha fatto parte. Una lapide costruita di Ilario Citton, magari, chissà. No, ma che nomi c'erano sulle lapidi invece? Ma c'erano dei nomi italiani, tra cui anche i nomi di alcuni produttori, della produzione italiana. Molto simpaticamente. Ah, chi ha prodotto il film ha messo il suo nome sulla tomba, così no. Rimarrà eternamente? No, non della produzione inglese, ma della produzione italiana. Ma faccia un nome, ad esempio, per capire. No, ma insomma, non è carino. Però questa, no, diciamo, questa, no. Diciamo, è una sorpresa che nessuno sapeva, che le lapidi del set di 007 a Roma, sì, hanno i nomi dei produttori che hanno voluto essere eternizzati, quindi quando in tutto il mondo danno questo film, avranno scritto il nome di chi l'ha prodotto, e quando sarà morto, quindi avrà la nostra tomba eterna. Marzia, buongiorno. Sì, buongiorno a voi, sono Marzia da Roma. Sì. Una persona comunissima, faccio l'accompagnatore turistico. Ah, quelli che fermano la gente per strada col fogliettino, no? No, sono quelli che accompagnano i gruppi durante le loro escursioni a Roma e in Italia. C'è un gruppo che l'ha portato a vedere il set di 007? Ma non ci sarei andata neanche a morire. Perché? È bello. Perché è stupendo, meraviglioso, però la mia riflessione sa qual è? È che un film, un set, ha, diciamo, più partorito l'idea della la spettacolarizzazione, siamo tutti in ginocchio perché arriva la Bellucci, l'industria. Ma quello solo Fabio Fazio in ginocchio, ormai a noi la Bellucci fa parte delle nostre diottrie perdute, ma almeno 20 anni fa, ormai che è una simpatica signora. Ma... Lo so, ma anche per lei, ma anche per me, però non è stato così per come è stato proposto. Postami, scusi, la questione. Sì, beh, l'ha ricevuta il sindaco in Campidoglio, manco fosse una regina. Non so, la mia riflessione è stata, io sono una persona comune, faccio il mio lavoro con... Sì, ma tiri un po' su, perché sennò ci muore in diretta. No, sono, cerco di essere pacata per non fare la polemica. No, si figuri. Ripeto, la mia riflessione è... questa onda esasperata di questo James Bond... Sì. Era proprio il caso di fermare la città e concentrarsi in maniera così... Su questo dilemma noi ci interrogheremo fino alla fine di questa giornata, sarà il nostro mantra quotidiano. Era proprio il caso di farlo a Roma con tanti problemi che ci sono? Marzia ha detto una cosa molto intelligente. Ilario Citton, risponda all'ascoltatrice, era il caso? Sì. Allora, sì, assolutamente sì, perché a Roma... Non c'è occasione migliore per dare lustro alla città, no, altro che il Papa, insomma, 007. La Eon Production ha pagato 16 milioni di euro per essere a Roma, al comune di Roma. Quindi è incassato Marino, altro che storia. Ci sono queste polemiche da parte dei cittadini o dei politici su James Bond a Roma, quando Roma ha problemi ben più gravi da risolvere che parlare di James Bond. Posso dire una cosa? Quando Roma è invasa di autobus turistici, di gite che vanno in Vaticano, che occupano tutta la città, e alla città non ne viene nulla. Ma insomma, dai, arrivare con Daniel Craig in città, con l'Aston Martin, per bloccare un po' il traffico e coinvolgere... E con 16 milioni fra i denti poi, soprattutto, che esatto, non è poco. Turismo, fan, tutto il movimento di ricchezza che porta James Bond in una città, su queste polemiche sono solo polemiche italiane e basta, perché all'estero questo non accade, non Anzi. Accade assolutamente, non accade. Senta, come hanno passato poi le serate al di là del girare? È rimasto Daniel Craig qualche giorno a Roma, sì? Sì, Daniel Craig è partito ieri. E cosa ha fatto in questi giorni? Come ha passato il tempo? Ma Daniel Craig ha girato costantemente nei set, sempre accompagnato da due guardie del corpo, blindatissimo, è impossibile incontrarlo. Io ho incontrato il produttore Michael Wilson all'albergo, gli altri... Che albergo stavano? All'hotel St. Regis, vicino a Piazza della Repubblica, quello è il quartiere generale della produzione. Mentre all'Alexandra stanno tutti i tecnici, stanno gli stuntmen, quindi insomma gli attori comunque sono costantemente sorvegliati. Lei ha passato le notti naturalmente davanti alla porta dell'albergo? No, io ci sono passato, ho passato qualche pomeriggio, qualche nostro amico ha anche incontrato Christoph Waltz, che non ha rifiutato di farsi le foto, ma credo per un motivo che la produzione non vuole che gli attori si facciano le foto assieme con i fan, ma è comprensibile. Però insomma Daniel Craig, ripeto, è in grande forma, sta portando Bond sempre più in alto e la Bondmania è veramente a livelli ben più in alto di Skyfall, ben più in alto. Fermiamoci un attimo, traffico, è molto interessante quello che stiamo rivelando questa mattina, retroscena che nessuno mai ha osato dire sulla presenza di 007 Roma. Melog, cronache meridiane. Sir Donald ha convinto il primo ministro a farlo. Posso ricordarle, 007, che Blofeld è morto? Finito? Dica un po', comandante. Lei che ha fatto degli studi approfonditi sullo sherry, che cosa sa dei diamanti? Beh, è la più dura sostanza che si trovi in natura. Ci si taglia il vetro, invita al matrimonio ed è il miglior amico della donna, come il cane lo è dell'uomo. Fa piacere sentire che esiste un argomento su cui non è un esperto. 80024 0024, stranissima commissione, cortocircuito totale. Il flemmatico agente 007 attraversa Roma con una bella valigetta di dobloni d'oro in mano, e quindi la consegna alla municipalità, che comunque affitta la città per il set cinematografico. I romani si lamentano, perché si lamentano sempre, una città che è un bordello quotidiano, però il fatto ci sia un set così famoso e si parli di Roma perché stanno girando un film memorabile, in fondo un pochino alle persone fa dire ma ci voleva anche questo. Dove parcheggiamo? Una città dove è regola parcheggiare in quarta fila, dove nessuno rispetta una regola, dove i vigili stanno sempre in giro ma non sono mai nel posto giusto e nel momento giusto. Abbiamo al telefono un informatissimo signore che tutto sa, perché ha seguito capillarmente le riprese del film, che è Ilario Citton, che ci sta dando delle informazioni veramente inedite finora sui retroscena di questo passaggio. Ilario Citton, ricordo che è presidente di Le Cercle, Barclay, club italiano di James Bond. Allora, Citton, quali saranno le scene di questo film che ci ricorderanno in maniera particolare il passaggio di 007 a Roma? Beh, innanzitutto vi do due scoop eccezionali. Il primo, che non è stato citato in questi giorni dai giornali, assolutamente, l'abbiamo fatto solo noi con il nostro blog lescircleclub.com, che è la famosa scena del Ponte Sisto, che tutti quanti stampa hanno annunciato da settimane, insomma, che Bond arrivava con le paracadute sul Ponte Sisto, si lanciava con l'elicottero. Ecco, i produttori sono stati bravissimi a depistare i fan e i giornali girando la scena di questo atterraggio con le paracadute a 500 metri di distanza con un verricello, nel senso c'era Daniel Craig in scena con la sua controfigura, appeso alla gru praticamente, e l'hanno girato di notte, alle 3 di notte, mentre noi fan eravamo tutti assiepati a Ponte Sisto a cercare di capire, a vedere cosa stava succedendo. Ah, quindi giocando sulla prospettiva hanno attaccato una gru, la controfigura Daniel Craig, sì, con un paracadute aperto, e l'hanno calato giù. Sì, esattamente, però attenzione, c'era anche Craig, non c'era solo la controfigura. Ah, lui si è buttato giù veramente? Sì, col vericello. Ah, l'hanno appeso alla gru Daniel Craig? Sì, perché Daniel Craig gira il 90% delle scene senza stuntman. È un attore che, oltre ad essere molto bravo come attore a livello teatrale, è molto bravo anche a livello fisico, perché si allena con gli stuntman agli studi. Oddio, somiglia un pochino alla scena di Angeli Demoni, quando il vice papa atterra col paracadute proprio davanti a Piazza San Pietro, metri. Ma lei lo sa perché atterra col paracadute? Perché la seconda scena blu, e questo è il secondo scoop che vi do, che sarà girato adesso a marzo, ci sarà l'Aston Martin inseguita dalla Jaguar di Mr. Inks, e in pratica l'Aston Martin finirà sul Tevere e Bond verrà eiettato dal sedile e praticamente eiettato nel cielo, e scenderà col paracadute a Piazza Trilussa. In pratica, Vedi. È una scena. Fa un bel giro, perché dal Tevere a Piazza Trilussa fa un bell'arco, sì. Sarà una scena talmente spettacolare. No, perché dentro è pieno di pantegane, di nutri, non è che gli conviene andare a mollo nel Tevere. Ma Bond, prima che scende col paracadute, tira fuori la sua volta PPK e spara alle nutri. C'è questa scena che spara alle pantegane nel Tevere. No. Volevo solo fare la battuta. E la Bellucci, c'è qualche scena in cui la Bellucci si esibisce, a parte in gramaglie da vedova? La Bellucci dicono che abbia girato delle scene di interni su una via dell'Appia Antica con Christo Walt, ma ci sarà un'ulteriore scena che praticamente ci sarà presso la Cappella Palatina, che doveva essere la Bellucci girata sulla Cappella sulla Cappella Palatina che doveva essere girata alla Reggia di Caserta, che non verrà girata lì per costi di produzione molto elevati. Non hanno voluto riparare. Ricostruita all'interno di un decreto di Cinecittà, dove c'è una riunione di tutti i boss praticamente della malavita e della malavita, parliamo la banda della Magliana, quelli lì, mafia capitale mondiale. Al cospetto di Ernest Stavro Brofed, che è il nemico storico di James Bond. Ecco perché c'è il titolo Spectre. Comunque vede che c'è un esatto parallelismo con la realtà. In un momento in cui Roma si scopre mafia capitale, tutti si stracciano le vesti, no? La mafia a Roma, guarda caso, la Spectre, la riunione dei più grandi mafiosi del mondo, la fanno proprio a Roma. Quindi evidentemente gli sceneggiatori sono anche documentati sull'attualità. Federico, buongiorno. Buongiorno, innanzitutto complimenti, sono felicissimo di poter intervenire su 007, che alla mia età, perché è il primo film, risale a ottobre del 62, io ho 50 anni. Ma vi dico, io facevo la seconda elementare, mi ci hanno portato. Beh, insomma, così ha potuto apprezzare meglio di me. Però devo dire che non si può discutere 007, è come la musica dei Beatles o qualsiasi cosa che accompagni l'evoluzione della nostra società. Un tempo, è vero, c'era la guerra fredda, oggi è uno stile di vita ed è comunque sempre avanti su quelli che sono poi le tecnologie che diventano di utilizzo quotidiano. Pensate ai gadget che erano incredibili negli anni 60, oggi fanno parte della nostra vita. Ma si figuri che io il filo d'acciaio per strangolare nell'orologio me lo sono fatto un mese fa e già lo vedevo nel film Dalla Russia con amore, che perlomeno sarà del 65-66. Massimo. È il secondo, sì. Massimo, buongiorno. Buongiorno a lei. Sì. Come vedete, anch'io sono cresciuto sulla generazione di film 007 al cinema e anche di Angelica, non so se si ricorda. Angelica, la Corte dei Re, sì. Sì, esatto. Beh, ma quelli erano un pochino quei film, quelli che ci davano quelle prime sensazioni per cui portiamo spesse lenti e occhiali da vista, è chiaro. Certamente. Senta, invece la precisazione mia è questa, no? Ben venga un film di 007 a Roma, perché la precisazione che faccio è questa. Sì, di Muccino ne abbiamo le palle piene. Ogni giorno io vado andando a casa, passo per la Bocca della Verità, e nella Bocca della Verità c'è una fila incredibile di turisti che mettono la mano giapponesi pensano che quello sia il monumento più importante di Roma, era il tombino di una fogna, però a loro piace senza dubbio. Ma questo, la fama di questo è un semplice film, certo, vacanze romane, e loro vanno lì, che è nell'immaginario collettivo di tutti, non soltanto italiani, stranieri, eccetera eccetera, e ha portato e continua a portare ancora un indotto che è incredibile. Questo è vero, quando pensi vengono tonnellate di pullman di giapponesi, vanno alla Bocca della Verità, non gliene importa niente dei Musei Vaticani, non gliene importa niente della Cappella Sistina, non gliene importa niente dei monumenti della Roma storica, fanno due ore di fila e fanno la foto con la giapponesina nella mano che fa ok con l'altra mano, tutte felici, tutti contenti, e per loro Roma l'hanno vista. È questo. E quindi 007 porterà una serie di indotti a lungo andare, proprio a catena, fortissimi su una cosa di questo genere. Ma infatti i romani che si lamentano piangono sempre, almeno qualcuno verrà a Roma con un pochino più di voglia di vedere una città. Mario, buongiorno. Sì, salve, buongiorno. Io volevo fare intanto i complimenti alla signorina che mi ha risposto quando vi ho chiamato, perché aveva uno scazzo fantastico, veramente. Uno scatto? No, scazzo. Sì, che oggi, mi dispiace, io guardi, non so nemmeno chi sia, mi dispiace che le signorine che rispondono al telefono rispondano male agli ascoltatori. Le chiedo scusa da parte sua, avrà avuto un momento un po' difficile oggi, non lo so, non la giustifica. Perché cosa le ha detto la signorina? No, perché mi ha chiesto una cosa, io non avevo capito subito e me l'ha ripetuta con lo scatto fantastico, ma va bene così. Vabbè, era un po' nervosa, sono donne, che vuoi, sono signorine, lasci perdere, ha avuto un momento suo particolare, perdoniamola, vabbè, andiamo al punto, certo, sennò perdiamo tempo. Niente, poi io volevo fare i complimenti a lei perché lei è veramente fantastico e volevo veramente, poi tanto avete il mio numero di telefono, il mio nome e tutto. Si va dal punto, qual è la domanda? Volevo mandare veramente a fanculo tutti quelli che hanno chiamato, perché... Allora, posso dire una cosa, Mario? No, non perdoni, Mario. Io a questo punto rimangio quello che ho detto. Ha fatto bene la signorina. Lei è un cafone, è un villano. Non va nessun bisogno. Lei doveva intervenire tranquillamente per parlare di 007. Se vuole il suo piccolo minuto di idiota celebrità di dire affanculo alla radio, lo faccia, se si sente meglio, se questo la gratifica, la fa sentire forte, sentire grande, ma ci fa perdere tempo a noi e chi stava seguendo il filo di una trasmissione. Riprendiamo con Citton, vediamo un po' di dare le ultime allora indicazioni su quelle che sono state le novità di 007. Allora, l'umanità è varia, ma noi non ci impressioniamo. Era stato un villain di James Bond, forse una compagna. Ma no, è un povero frustrato come tanti che pensano chiamare la radio sia un momento importante della loro vita. Assolutamente. Beh, allora, innanzitutto Craig, che sappiamo che è partito, è andato in direzione Londra, forse Messico, Città del Messico, dove c'è la prossima location di Spectre. Però qui a Roma le scene che verranno girate saranno girate con gli stuntmen, saranno scene sulla Nomentana, che è la famosa Nomentana che è stata annunciata in questi giorni, quindi scene sempre di inseguimento che verranno collegate a tutte le scene che abbiamo visto anche in corso. Quindi non c'è il protagonista, ma le sue controfigure continueranno. Grazie infinite, alla prossima.